Sì. DJ Nice, Web T. E vieni via, vieni via con me. Senza sta cazzo di voce, non faccio rap politico, solo fine a se stesso. Faccio rap informazione, scrivo la mia storia adesso. Non quelli che ben pensano, ma chi pensa bene. Mostro possibilità, scavo una buca, getto un seme. Butto l'acqua, aspetto che nasca nuova vita. Non mi basta la denuncia, non vedo la via d'uscita. Hai scritto un altro singolo, la gente se lo canta. Ti chiedi se capisci cosa dice o carta bianca. Sono intorno a noi, sì, li vedo tutti i giorni. Non è cambiato un cazzo e forse sono anche peggiori. Espande macchia d'olio, ipocrisia, zero valori. Credevo fossi amico, poi ti ho visto dal di fuori. E non ci casco più, obiettivo no, errori. Piccola bottega degli orrori, ho citazioni migliori. Grosso guaio a Milano, sono botte. Supa fibra d'anti, guerrieri della notte. Vieni via con me, oggi tutti fanno rap. Vieni via con me, noi lo facciamo meglio. Vieni via con me, oggi tutti fanno rap. Vieni via con me, noi lo facciamo meglio. Ci sono quelli che ben pensano, quelli che non pensano. Ci sono i rapper scarsi e quelli che influenzano. È difficile essere come si è quando la gente intorno pretende un altro te. Nel sonno sogno di vincere Sanremo come Joe Di Tonno. Che chi cazzo è? Oh? La gente mi domanda, sì ma dai sei serio? Ogni rima rimarrà ma tutto il resto zero. I soldi sono finiti, siamo tutti stirati. Per di più questa roba te la scarichi gratis. Arriva il tipo che mi fa, a noi tu piaci. Poi arriva il tipo che mi fa, li vuoi, io piace. Sogno due tette nucleari come le testate. Ma se sbaglia a fare rima qua mi prendo una testata. In Corvette con la Corvaglia in Cordovaglia. Da Senigallia se mi sballa sta roba ne compro una palla gigante come la scimmia che tengo sopra la spalla. Vieni via con me, oggi tutti fanno rap. Vieni via con me, noi lo facciamo meglio. Vieni via con me, oggi tutti fanno rap. Vieni via con me, noi lo facciamo meglio. Ricchi, poveri, tutti vogliono la stessa cosa, tutti. Io non la voglio una donna famosa. E io mi accontento di quello che tu butti. I giapponesi dicono che siamo scansafatiche, ma almeno noi il pesce lo cuciniamo. Siamo il parco giochi degli americani che vengono qua e ci fottono le ville e la canali. Non sogno in grande, sogno più vicino al terreno come chi dorme sul futon. Non lo faccio per la cultura e neanche per l'hip hop. Non lo faccio per le jam come il gruppo rock. Triste realtà, ma questa è, non credere alla TV. Loro raccontano favole, io dossier. Dovresti fare come mio fratello più piccolo, credere al grande fratello e quindi a me. Vieni via con me, oggi tutti fanno rap. Vieni via con me, facciamo meglio. Vieni via con me, oggi tutti fanno rap. Vieni via con me, noi lo facciamo meglio. Vieni via con me, oggi tutti fanno rap. Vieni via con me, noi lo facciamo meglio. Vieni via con me, oggi tutti fanno rap. Vieni via con me, noi lo facciamo meglio. Supa, che base catto comunista.